America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da Bruxelles al seguito del presidente Obama, Mario Platero. We have contingency plans and that every one of our NATO allies has assurances that we will act in their defense. Dall'AIA Barack Obama è già arrivato a Bruxelles. Questa mattina il presidente si è recato al Flanders Field Cemetery, un cimitero di guerra americano qui in Belgio, a Waregem, per onorare i caduti della Seconda Guerra Mondiale. Questo sarà un anno chiave, ci saranno varie celebrazioni anche nel mese di giugno. Dopodiché è rientrato in città, un incontro al Consiglio d'Europa e nel pomeriggio un incontro alla NATO. Questo è un po' il secondo capitolo dell'offensiva diplomatica americana nei confronti della Russia. Prima all'AIA si è creato il consenso attorno al G7 e con molti incontri bilaterali. A questo punto c'è l'Europa tutta, c'è la NATO, stiamo parlando in totale di una quarantina di paesi. Più tardi, fra una mezz'ora, il presidente parlerà di nuovo in conferenza stampa, però vorrei farvi ascoltare alcuni passaggi della conferenza stampa di ieri, il suo primo intervento pubblico dopo il G7, il suo primo intervento pubblico da quando è sbarcato in Europa. Devo dire con un messaggio piuttosto interessante, ascoltiamolo. Russia is a regional power that is threatening some of its immediate neighbors, not out of strength, but out of weakness. Ecco, Barack Obama ha ripetuto naturalmente il rischio di sanzioni, ha accennato al fatto che ci saranno sanzioni più dure se la Russia dovesse procedere con una escalation in Ucraina, sanzioni nel settore dell'energia, nel settore commerciale, nel settore delle grandi commesse internazionali, insomma sarebbero sanzioni queste che vanno a colpire davvero molto duramente la Russia, che colpirebbero naturalmente anche alcuni dei paesi del G7. Ma a un certo punto a Obama è stata fatta questa domanda, gli è stato detto: ma insomma, signor Presidente, lei qui arriva in Europa con la Russia che si è presa un pezzo di un paese, in Siria le cose non vanno avanti, in Iran siamo fermi, c'è forse un declino degli Stati Uniti d'America, c'è forse un suo declino personale in questa situazione? Una domanda, devo dire, molto provocatoria da parte della stampa americana, ma Barack Obama, che è apparso molto statesmanlike durante tutta la conferenza stampa, non ha esitato, ha risposto con assoluta calma, in assoluto controllo e ha negato ovviamente di trovarsi d'accordo con le premesse della domanda e ha detto che è la Russia di fatto ad essere in declino. Queste le sue parole: la Russia oggi è una potenza regionale, dunque non globale, che cerca di minacciare i suoi vicini partendo da una posizione di debolezza, non di forza. Abbiamo una considerevole influenza sui nostri vicini come Stati Uniti d'America, ha detto Obama, ma non abbiamo bisogno di invaderli per avere con loro una relazione forte e cooperativa. Il fatto che la Russia abbia dovuto invadere violando le leggi internazionali dimostra minore influenza, non maggiore influenza. Per noi, facendo quello che stiamo facendo, si tratta semplicemente di affermare il diritto internazionale. Non abbiamo bisogno delle armi per farlo. There are going to be moments where military action is appropriate. There are going to be some times where that's not in the interests, national security interests of the United States. È stato proprio a quel punto che Obama ha anche offerto una via di uscita, cioè ha chiesto alla Russia di tornare al tavolo dei negoziati, ha ricordato come l'Ucraina abbia aperto a Mosca, abbia chiesto a Putin di sedersi insieme, di trovare una soluzione diplomatica, politica, e il messaggio di Obama è stato chiaro, dice: non vorrei illudere nessuno, devo essere molto realista, come dire, la Crimea è perduta, è difficile che possiamo recuperare la Crimea nel contesto dell'Ucraina, però cerchiamo di dare un contesto di legalità a questa situazione e cerchiamo di recuperare stabilità, perché poi in fondo, diciamolo, è molto più importante in questo momento pensare alla crescita economica, a cercare di star bene che non a mettersi a combattere per recuperare porzioni di territorio. Tanto è vero che lo stesso Barack Obama ha detto che nel caso la Russia dovesse invadere anche porzioni dell'Ucraina orientale, la NATO non si mobiliterà perché l'Ucraina non fa parte della NATO. Dunque l'opzione militare è fuori dal tavolo, l'opzione militare ci sarà se la Russia dovesse invadere paesi che invece fanno parte della NATO. Ma questa sera Barack Obama arriva a Roma e domani ci saranno un paio di incontri importanti. Il più importante sarà quello con Papa Francesco, sentiamo di nuovo Obama. First of all, he seems somebody who lives out the teachings of Christ. Incredible humility, incredible sense of empathy to the least of these, to the poor. Quando gli è stato chiesto tempo fa di dare una sua impressione di Papa Francesco, Obama ha risposto così: è una persona che incarna e mostra gli insegnamenti di Cristo, incredibile umiltà, incredibile attenzione agli ultimi, ai poveri, una cosa che ti suggerisce l'idea di uno che abbraccia piuttosto che allontanarti. Ecco, questo incontro di Barack Obama con Papa Francesco sarà il punto focale di domani mattina, e devo dire che è, come si direbbe in America, un match made in heaven, un incontro in paradiso, perché i due si intendono su alcune tematiche chiave. Ci saranno alcune differenze naturalmente, ma non credo che emergano così come sono emerse privatamente nell'incontro del Papa con Hollande. E parlando con un alto funzionario della Casa Bianca qui al seguito del Presidente, devo dire, mi ha confidato che da parte americana ci si aspetta grande sintonia in questo incontro, perché sia il Papa che Barack Obama hanno interessi comuni non soltanto nella lotta alla sperequazione. Ricordiamolo, Barack Obama ha imposto con un decreto l'aumento del salario minimo contro il volere dei repubblicani, ma ci sono altre tematiche importanti, per esempio la protezione dei cattolici in situazioni difficili anche dal punto di vista militare, e qui parliamo in particolare di Ucraina. Papa Francesco è particolarmente preoccupato da quello che sta capitando in Europa orientale. Parliamo anche di immigrazione. Il Papa è molto interessato alla riforma sull'immigrazione che sta portando avanti Barack Obama, e su questo gli americani punteranno molto, perché hanno un ritorno di politica interna. Ricordiamolo, la stragrande maggioranza degli immigrati illegali in America è cattolica. Ci sarà un dialogo sulla Cina, entrambi sanno che devono reach out, che devono cercare di stabilire un dialogo con la Cina. Un incontro, dunque, quello domani mattina, molto importante, ma anche un incontro che darà un'immagine simbolica molto importante, perché vedere un presidente americano che rappresenta la nazione più capitalista del mondo intendersi con Papa Francesco, che porta, come ha detto lo stesso Barack Obama, un messaggio di umiltà e di abbraccio, credo che non potrà che far bene a tutti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee, potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Già ieri ho detto, siamo in tensione, pensiamo al pacifismo, rievochiamo alcune delle vecchie canzoni del pacifismo, e dunque oggi, sempre auspicando che la tensione possa sostituirsi la distensione, lancio Pete Seeger, Where Have All the Flowers Gone? Where have all the young girls gone? Da Bruxelles è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.